nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Bentornati, bentornati a Nessuna è Perfetta, che piacere ogni domenica ritrovarvi e trovare tanti vostri messaggi vocali che ci mandate al numero della casella 828 12 12. Ci sono messaggi che si riferiscono alla puntata della settimana scorsa, quella nella quale abbiamo parlato di difficoltà al tornare al lavoro con le scuole chiuse, gli asili chiusi e sostanziale diciamo barriera che resta all'affermazione delle donne italiane su un piano di parità. Ne abbiamo parlato a lungo con gli ospiti di domenica scorsa e uno dei messaggi che ci è arrivato si riferiva proprio all'intervista al professor Maurizio Ferrera, che è stato nostro ospite la settimana scorsa. Sentite. Buongiorno Maria. Io non condivido del tutto le posizioni del suo esperto. Le donne sì, lavorerebbero con molto più piacere e farebbero anche più figli, solo che gli asili nido costano tantissimo e dallo Stato non arriva nessun aiuto. Invece dove si fa una carriera per meriti, invece come ad esempio nella scuola, ci sono molte dirigenti donne. È anche vero che noi uomini professori nella scuola di solito non siamo proprio degli arrivisti. E inoltre vorrei segnalare che quel retaggio di cattolicesimo in Italia secondo me non c'è più. Ecco, questo era uno dei vostri messaggi, grazie a Daniele che ce l'ha inviato e grazie a tutti voi che continuate a mandarcene e grazie anche a chi ha in qualche modo anticipato il tema di questa domenica. Di che cosa parliamo questa domenica? Parliamo del fatto che per fortuna ci sono degli uomini italiani che si sono stufati, che si stanno stancando di vivere in un paese arretrato, unico paese europeo a non capire che, come dice uno slogan dell'associazione Fuori Quota, senza le donne non si riparte. Ho preso spunto da un post e da una foto che è stata postata su Facebook dal vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando per scrivere un commento sul Messaggero giovedì scorso. Qual era la foto che Orlando ha postato? Era una foto degli Stati Generali, convocati come sapete in questa settimana e che si concludono proprio oggi, dalla quale si vedeva seduti attorno a un tavolo una lunga distesa di maschi e una sola donna. In realtà poi di ministre ce n'erano presenti, la foto era stata tagliata in un modo che le escludeva, però il concetto è che tanti convegni vedono una lunga distesa di faccine maschili e nessuna donna, come se non esistessero. Andrea Orlando ha pubblicato quella foto con un commento ironico, trova la differenza, ma appunto ironia a parte, il tema è molto serio e comincia a diffondersi anche tra gli uomini italiani un certo disagio nell'essere gli unici europei che ancora ignorano la presenza femminile. Perché, diciamola tutta, un maschio che non si è reso conto che il mondo intorno a lui è totalmente cambiato fa un po' la figura come dell'ultimo giapponese che non si arrende nei boschi dopo la Seconda Guerra Mondiale, o come chi a distanza di decenni dall'introduzione di internet nelle nostre vite si ostina a scrivere su una lettera 23 su una vecchia macchina per scrivere. Insomma, gli italiani, i maschi italiani, non tutti, ma qualcuno comincia a capire che per non sentirsi etichettare come superati dal tempo, fuori dalla storia, occorre capire che alle donne si deve dare la giusta metà di tutto. La settimana scorsa anche il ministro Provenzano, per esempio, ha rifiutato di partecipare a un convegno perché non c'era nessuna relatrice. La stessa cosa fa da tempo l'ex presidente della Consob, Mario Nava, oggi direttore generale a Bruxelles nella funzione di sostegno delle riforme strutturali dell'Unione Europea. Ecco, stiamo cominciando a vedere dei maschi che reagiscono. L'associazione Minima Moralia e due delle sue partecipanti, Gioia Ghezzi e Paola Bonomo, stanno lavorando insieme al fondatore di Minima Moralia, Fabrizio Pagani, e a tanti altri soci, a una specie di codice che dovrebbe aiutare chi organizza i convegni a non essere sbadati. E proprio in riferimento al tema di questa puntata, beh, sapete, come dire, era nell'aria e ci è arrivato un WhatsApp vocale di Barbara Poggi, sociologa, prorettrice per le politiche di equità e diversità dell'Università di Trento, che proprio su questo argomento sta portando avanti varie iniziative. Sentiamo cosa ci dice Barbara Poggi. Si tratta di un'iniziativa per prevenire il fenomeno dei MANEL o male panel, cioè quei convegni o tavoli di lavoro in cui presenziano soltanto uomini, quando in realtà esisterebbero donne in grado di essere coinvolte, competenti. E si colloca all'interno di una serie di iniziative che il nostro Ateneo sta portando avanti sul piano della parità di genere, e con l'obiettivo di favorire un cambiamento all'interno, ma anche un cambiamento culturale più generale. E non sono vincoli, perché la cultura non può essere cambiata con le imposizioni, ma raccomandazioni cui principale obiettivo è quello di sollecitare l'attenzione alla questione, perché spesso quando ci sono questi eventi, queste situazioni, gli uomini dicono non ci ho pensato. Ecco, noi vorremmo stimolare il pensiero. Ecco, allora grazie a Barbara Poggi. Vi ricordo che i vostri messaggi vocali graditissimi li potete inviare all'828 12 12, il numero della nostra casella vocale, e ci trovate ovviamente anche su Twitter e su Facebook. Piccola pausa, poi torniamo con la nostra Sunday Girl. Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Nessuna è perfetta. Benvenuta, buona domenica, Serena Bortone, la giornalista che ci ha accompagnato in questi anni su Agorà, su Rai 3, ci ha accompagnato sempre, ma nei mesi del lockdown è diventata una presenza fissa, una compagnia intelligente e acuta, e che adesso invece da Rai 3 passa alla rete più importante della Rai, a Rai 1. In bocca al lupo intanto e buona domenica, Serena. Crepi il lupo, Maria, ti ringrazio della presentazione, del mio futuro ancora non so nulla, però diciamo lo prendo come un buon auspicio, il tuo comunque come un auspicio per il futuro, perché ancora non è nulla di definito. Devo essere precisa in questo. Certo. Ecco, con Serena Bortone vorremmo parlare di un tema che so che le sta molto a cuore, ed è quello di cui vi accennavo all'inizio della puntata. Ci sono dettagli che la dicono lunga sulla modernità di un paese, i dettagli dei dibattiti che si tengono, dei convegni, degli appuntamenti importanti, delle task force che si nominano, ci raccontano di un paese che insiste, unico in Europa, a ignorare le donne. Io li ho definiti in un articolo sul Messaggero gli sbadati. Perché secondo te, Serena Bortone, c'è questa resistenza tutta italiana? Perché in Spagna, che pure è un paese che ci somiglia molto, non è così. In Francia nemmeno a parlarne. In Germania stanno cambiando moltissimo. Allora, perché perché gli uomini italiani fanno tanta fatica a modernizzarsi? Potrei dirti perché siamo un paese nel quale il patriarcato è ancora la mentalità dominante, ed è una risposta che sicuramente ha un suo fondamento, ma forse anche la risposta più semplice che possiamo darci, Maria, so che il tema è a cuore anche a te, per cui parliamo di cose che ci interessano. Ecco, forse dovrebbero interessare tutte, anche più noi donne. Ovviamente lungi da me voler colpevolizzare le donne, perché non è qualcosa che farei mai nella vita, però io credo che la consapevolezza è un percorso che anche noi dobbiamo affrontare, e quindi sono sempre abituata a combattere le battaglie in prima persona con l'aiuto delle altre. Quindi direi, se noi dessimo il buon esempio anche noi, ci imponessimo, insomma, anche nelle cose più banali, pensando che se chiedi un aumento di stipendio ti è dovuto, perché appunto è importante, perché se quando facciamo gli autori di programmi televisivi, cosa che a me è capitata molte volte prima di fare le conduttrice, imponessimo il fatto che ci deve essere una donna in un parterre di un talk televisivo, altrimenti il talk è sbagliato, non rappresenti la realtà. Ecco, più forza da parte nostra, no, a questa, io la chiamo misoginia interiorizzata, no? L'idea che affermarsi come donna, affermare le altre donne sia importante per noi, meno paura, ecco, più coraggio, meno paura anche del potere. È un discorso molto lungo, molto complesso, ma non deve spaventare noi per prime, prima che gli uomini, perché poi gli uomini si adattano, Maria, o no? Io dico che l'Italia è il paese più arretrato su questo terreno in Europa, ma anche gli Stati Uniti, che pure tanta strada hanno fatto, ammettono di avere delle resistenze, dei pregiudizi che non si osa nemmeno definire. Mi ha molto colpito in questo senso le chiacchiere che abbiamo fatto qualche giorno fa proprio con te, perché tu hai ricevuto una mail da un grande gruppo internazionale di abbigliamento. E che cosa si diceva in quella mail? Gruppo, ecco, americano. È una cosa buffa, peraltro è una mail mandata mailing list, quindi ho acquistato un paio di jeans, e questa è una marca notissima di jeans, forse la marca più famosa al mondo, quindi un prodotto iperpopolare. Non stiamo parlando di un prodotto per fighetti o per fighette, come direbbe chi detesta i cosiddetti radical chic, e ne fa una battaglia da radical chic quella del discorso di genere, per capirci. Loro dicevano, lunghissima mail, abbiamo capito che abbiamo fatto degli errori, abbiamo dei problemi, questo è sull'onda di George Floyd, del Black Lives Matter, però facevano proprio, davano anche le percentuali di quante donne e quanti uomini hanno al loro interno e di come vengono suddivisi, cioè non solo, perché è facile dire ci sono tante donne, però se magari sono nei gradini più bassi della produzione o della distribuzione è ovvio che il discorso non vale. E invece loro ci tenevano a far sapere che avevano dei problemi su questo, sulle donne no, perché erano comunque ben messi, sulla parte invece afroamericani ce li avevano, e comunque specificavano tutti gli atti positivi che avrebbero messo in essere per riequilibrare la parte discriminante al loro interno e per mantenere questa inclusione tra generi, e nel caso appunto del femminile. Ecco, ne hanno fatto una battaglia di marketing, anche soltanto a voler pensare che sia solo una battaglia di marketing, una battaglia di marketing intelligente, perché vuol dire che la sensibilità... Tant'è vero che ne stiamo parlando. E poi questa mail è arrivata a milioni di consumatori di quei jeans. Quindi è un messaggio molto chiaro. Perché mi ha colpito? Perché se ne accorgono le aziende, se sono le aziende che proprio per motivi di business devono tenere le antenne aperte, no? E quindi se sono le aziende che cominciano a dire ai loro consumatori guardate, stiamo cambiando, forse se ne dovranno accorgere e arrendersi pure i tanti, ecco, che fanno resistenza. Peraltro, guarda, qui la mail sott'occhio, dicono cominciando da ora noi dobbiamo sradicare l'ineguaglianza nel cuore della ditta, dell'azienda famosissima. È proprio un mea culpa molto forte. Se pensi, Maria, che da noi è stato anche complicato ed è ancora complicato il linguaggio di genere, no, non si può dire la ministra, perché pare, c'è ancora chi ti dice suona male, suona male perché nessuno la usa, perché ci sono state poche ministre in passato. Dunque, se queste cose, diciamo, sono ormai di senso comune, e poi però chissà perché Noi siamo partiti dall'idea del convegno come dettaglio che spiega tutto uno stato d'animo, però appunto c'è da citare Emma Bonino che in un'intervista ha detto: in Italia la parità di genere esiste solo il sabato e la domenica nei convegni, verrebbe da dire nemmeno lì, cara Emma. Comunque, prosegue la Purtroppo. Bonino, dal lunedì chi ha il potere reinserisce il pilota automatico e sceglie gli uomini che conosce, di cui è amico e che gli girano intorno. Perché anche questo è vero. È un fatto di branco, no? Tu conosci quello, vai a giocare a calcetto con quello, ti fidi di quello. Però secondo te perché noi donne non lo facciamo così tanto? Forse lo stiamo cominciando a fare ora. Allora io dico, nel mio piccolissimo, quando ho preso il potere, dico una parola che appunto frequentiamo poco, perché poi gestire un gruppo di lavoro vuol dire avere il potere su un gruppo di lavoro, io ho preteso che ci fossero nella top degli autori delle donne, che non c'erano prima. Ce n'era una sola, per cui perché io ho preteso invece la metà e metà? Perché ho capito che avrei sbagliato a fare un programma solo con uomini. Diciamo, ma ti occupi di politica, e allora a maggior ragione, primo punto. Secondo punto, lavoriamo sull'immaginario, la nostra generazione, ma non quello delle ragazze che sono cresciute dopo. Io sparo delle bambine che adesso magari leggono la buonanotte per le favole per le bambine ribelli, come la storia delle donne intraprendenti. Ecco, siamo cresciute con Cenerentola, siamo cresciute con Biancaneve. Siamo cresciute con l'idea che una donna dovesse essere rivale dell'altra per conquistare un maschio, un principe. Ecco, questo è difficile È una praticare trappola, simbolico. questa è una trappola. Ma infatti l'ultima domanda che volevo porti, e anche nel nostro mondo diciamo che ci sono stati esempi, e credo che sia inevitabile, no? Ma le poche donne di potere sono talvolta le prime che tendono a difendere la loro posizione, dicono: beh, io ce l'ho fatta e adesso arrangiatevi. Pensi che sia un atteggiamento che sta cambiando o essendo la torta piccolina? Perché quando ci sono tante donne nessuno ci pensa, penso al governo norvegese, no? Che è composto da Certo, donne, nessuno certo. pensa a lasciar fuori Finlandia. una perché. Ma in condizioni così arcaiche, sottolineo per l'ennesima volta, arcaiche Brava. com'è l'Italia, quando una donna ce la fa dice: beh no, sì, qui sono arrivata col cavolo che divido con qualche altra. Sì, forse c'è questo, c'è un po' appunto del simbolico a cui accennavo prima, c'è però anche, devo dire, io ripeto, io insisto molto su questo percorso e sul discorso che ci dobbiamo fare fra di noi, perché il femminismo, la uso la parola, che sembra diventata una parolaccia, no? Il femminismo è un processo di consapevolezza, essere femminista non vuol dire odiare gli uomini, anzi. Vuol dire partecipare meglio con loro alla formazione dei processi produttivi, vuol dire interpretare meglio la realtà anche con loro. Ecco, se noi ci aiutiamo a dare il buon esempio sul lavoro è importante, perché se tu aiuti un'altra donna, quell'altra donna crescendo ne aiuterà un'altra ancora. Ecco, questo è quello che io cerco di dire sempre alle persone che lavorano con me. Ecco, e mai questi modi di promuovere solo i maschi, perché poi purtroppo è così. Noi donne siamo meno attente all'idea di ci buttiamo un po' di meno e allora dobbiamo aiutarci. E dico E l'ultima cosa, infatti dobbiamo ovviamente il aiutarci Covid e rischia di peggiorare, ecco, perché poi se c'è crisi le prime che stanno a casa sono le donne e questo dobbiamo ricordarcelo ora l'abbiamo in questo visto, momento. l'abbiamo visto con chiarezza. E un'altra cosa che penso serva è mettere in luce quei comportamenti invece di uomini che sono consapevoli di essere parte di un flusso, di una storia che non puoi fermare. Perché è come quelli che ai tempi delle prime automobili a motore dicevano: no, il cavallo non sarà mai sostituito. Ecco, te lo stanno dicendo in tutti i modi che l'economia non riparte senza le donne, te lo dice il vertice dell'Unione Europea che è costituito da donne, te lo Donne dicono peraltro. i grandi manager intellettuali internazionali, te lo dicono le grandi aziende, e abbiamo citato una grandissima azienda americana, e fattene una ragione, no? Assolutamente sì, aggiungo una battuta, ma se gli uomini cominciassero a capire che più sono femministi, più sono intriganti, intelligenti, affascinanti, Moderni. Moderni. Sì, essere moderni e essere contemporanei vuol dire anche essere affascinanti, perché nessuna donna prenderebbe un uomo antiquato, no? E quindi mettiamola anche un po' sul costume, te la butto lì, perché forse infatti anche quello serve. Qualcuno, vedi che qualcuno l'ha capito, Provenzano, brava, Orlando, brava, questi qui l'hanno capito subito. Esatto, Serena, esatto. Ti aspettiamo qui, a Nessuna è perfetta quando vuoi, eh? Prima fantastico. O dopo il cambio? Nessuna è perfetta, è un titolo fantastico, la peggiore nemica delle donne è Wonder Woman. Esatto, e noi siamo contro il multitasking. Ciao Serena, buona domenica. Ragione, grazie mille, buona domenica a tutti. Nessuna è perfetta. Terza parte di Nessuna è perfetta qui su Radio 24. Ospite questa domenica il professor Severino Salvemini, economista, ordinario di organizzazione aziendale all'Università Bocconi, editorialista del Corriere della Sera e presidente della Fondazione Adecco per le pari opportunità. Buona domenica. Buongiorno dottoressa e tutti i radioascoltatori. Ecco, lei ha scritto la prefazione di Perché tanti uomini incompetenti diventano leader e come porvi rimedio, un libro pubblicato da Egea e scritto da Thomas Chamorro Premusic, docente di psicologia aziendale all'University College di Londra. È una cosa che ci domandiamo qui a Nessuna è perfetta da 5 anni. Perché si può essere incompetenti e fare brillanti carriere essendo uomini e perché tante donne competenti invece non riescono? Ma la ricerca di Chamorro è una ricerca che parte dall'evidenza empirica, cioè prende in considerazione tutta una serie di sondaggi in cui i lavoratori spiegano perché abbandonano il proprio posto di lavoro. E la causa è prevalentemente il diretto superiore, no? Cioè una leadership inadeguata o mediocre del capo. Essendo, come lei sa perché lo racconta e lo spiega ogni settimana, essendo la leadership in particolare nelle aziende e nelle organizzazioni prevalentemente maschile, è chiaro che questa incompetenza è un'incompetenza per sillogismo dei maschi e quindi rovescia in un certo senso un po' il paradigma che viene spesso discusso relativamente al soffitto di vetro, alle quote rosa, eccetera, e dice invece di abbassare l'asticella per consentire, diciamo, alla generazione femminile di poter avere chance e opportunità di crescita, perché non alziamo l'asticella invece delle competenze dei maschi che molte volte proponiamo per le posizioni di vertice, anche se ci sono dei semafori gialli predittivi di potenziali fallimenti. Il libro dice in particolare il comportamento alfa dei maschi, cioè il machismo dei maschi, è un qualche cosa che diciamo sottolinea l'autostima egoriferita e narcisistica, la pervicacia nel voler raggiungere a tutti i costi gli obiettivi, l'indole al comando autoritario, eccetera, e spesso queste cose nella selezione o nei passaggi di carriera vengono scambiati per doti straordinariamente positive, cioè molte volte poi dopo noi usiamo la parola carisma, che ormai è così consunta e spuntata da non comprendere più alcun significato preciso, per mettere insieme in una scatola tutte queste cose. Ma il libro di Chamorro è interessante anche perché sottolinea con molte ricerche empiriche che invece le donne performano meglio degli uomini nelle organizzazioni complesse. Ci sono 45 ricerche che spiegano che su una serie di passaggi che sono l'orientamento al cambiamento, la guida del team, la comunicazione della visione del business, la sottolineatura dei valori della cultura aziendale, la raffinatezza dell'empowerment dei collaboratori, ecco, in queste cose qua la popolazione femminile è una popolazione che ha una marcia in più. E quindi lo so, professore, ne sono convinta per prima, però vede, professor Salvemini, tra le società restie in Europa quella italiana è probabilmente la più restia. un po' perché è vecchia e un po' perché, forse per questioni anche storiche, è abituata a premiare la fedeltà, l'appartenenza a un branco, appunto, più che la competenza. E questo vale anche per gli uomini. Molto spesso uomini competenti non vengono premiati, vengono premiati uomini molto meno competenti, ma fedeli. Come si può intervenire? È un Ma fattore anche sociale. no, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Il libro in questo è molto interessante perché sottolinea una cosa che non è così diffusa nelle ricerche sia organizzative che sociologiche. Sottolinea il fatto che diciamo la società tardiva, come diceva lei, la società un po' patriarcale della nostra storia, è una società che tende a privilegiare degli atteggiamenti di carattere alfa. Perché noi in Italia siamo legati a diciamo, a questo tipo di atteggiamento, a questo tipo di tratto culturale? C'è una ricerca di parecchi anni fa di un antropologo olandese che si chiamava Gert Hofstede, che ha fatto una ricerca su tutta una serie di aziende in 40 paesi del mondo. Ed è venuto fuori che una delle caratteristiche del nostro paese molto forte è l'accettazione delle persone, e questo è tipico delle aziende, ma anche molto nella società, dell'accettazione delle persone della distanza di potere. Cioè io accetto volentieri che il mio capo sia molto più potente di me e quindi gli affido il mio destino, comunque vada, a sua discrezionalità. E questo è, cioè, se andiamo a vedere la storia, gli storici ce la spiegano con tutte le dominazioni che abbiamo subito, no? Allora, il Certo, fatto che certo. il potere sia così importante nella società italiana e che il potere sia interpretato come, diciamo, volontà autocratica da parte del capo e quindi, poca disponibilità a confronti paritetici con il collaboratore, ci porta molto spesso, in termini di deriva culturale, a privilegiare il maschio alfa rispetto invece ad un comportamento più femminile. Perché ci E questo. sentiamo più insicuri e gli affidiamo il nostro futuro. Pensaci tu che sei forte e così mi Sì, garantisci. Mentre altre perché società partono dal c'è un po' presupposto che questa ciascuno è artefice del proprio destino. Sì, c'è un po' questa mitologia del machismo, no? Recentemente c'è stato un articolo interessante su Repubblica dove si scriveva che per aumentare la credibilità del leader bisognerebbe cavalcare dei cavalli, per cui c'era la fotografia di Bolsonaro oppure la fotografia di Putin a petto nudo o anche del leader nordcoreano Kim Jong-un, che cavalcava nella neve seguito dalla sorella del corteo dei dignitari. Perché? Perché il fatto di salire in sella e dimostrare la virilità era considerata una delle caratteristiche di leadership. Ecco, tutte queste cose fanno in un certo senso un po' ridere, ma sono diciamo la prigione dei nostri atteggiamenti del passato. Sì, dopodiché, appunto, le società che hanno fatto meglio di fronte all'emergenza Covid-19 sono società le cui leader sono donne, la Germania, i Certo, paesi del Nord ma Europa, qui c'è una Singapore spiegazione razionale o perché Taiwan, meglio. se, durante il Covid il virus ha fatto emergere tutta una serie di comunità professionali che non erano necessariamente le comunità aziendali, ma erano le comunità scientifiche e quindi la fisica, la matematica, l'informatica, la statistica, la medicina, eccetera. E lì fortunatamente molto di più delle facoltà economico, delle facoltà umanistiche, c'è minore discriminazione perché è maggiormente presidiato il raggiungimento dei risultati. Infatti abbiamo visto il dibattito con molte donne e abbiamo anche assistito al ministro Provenzano che ha rifiutato poi dopo di fare il convegno dove c'erano solamente Certo, rappresentanti e maschi. dicevo in inizio di trasmissione che comincia a esserci proprio una percezione da parte intanto dei politici maschi che non essere sensibili a questo tema, al tema dei convegni in cui sono invitati solo uomini, il tema delle task force in cui le donne non sono sufficientemente rappresentate. Ecco, non essere sensibili a questo fa fare loro la figura degli arcaici, di quelli fuori dal loro tempo, appunto, ripeto, come persone che non sappiano usare un cellulare o non conoscano nemmeno una parola d'inglese. E Andrea Orlando, vice segretario del Partito Democratico, proprio nei giorni scorsi aveva postato su Facebook la foto di un pezzo della riunione degli Stati Generali dove erano tutti uomini e una donna sola. Era una foto tagliata, perché poi c'erano anche altre ministre, però dal senso del fatto che cominci la politica a essere sensibile a questo. Vediamo se seguiranno. Se posso essere un po' cattivo nei confronti del vicepresidente Orlando, però gli ricorderei che durante la malattia di Nicola Zingaretti, la presidente del PD, presidente donna, che si chiama Valentina Lupi, che nessuno di noi ha mai conosciuto, non è mai andata né in audio né in video, perché è stata sostituita dal vicepresidente Orlando. Quindi anche qui, in questa politica di pink washing, ci sono delle persone che diciamo sanno cogliere le opportunità e altre un po' meno. Ma qui non so se si ricorda, c'era un esempio che è stato bellissimo, poi noi a memoria corta non ce lo ricordiamo. Un 3-4 anni fa c'è stato un convegno a Sulmona di uomini politici, c'era il governatore Bonaccini, c'era il presidente dell'Abruzzo, c'erano altri notabili, e il convegno era fatto tutto da rappresentanti maschi, con una serie di signore in piedi che sorreggevano con grandi ombrelli per proteggere dalla pioggia i loro dirigenti, e questa scena era una fotografia paradigmatica di gregarietà e di servilismo. Cioè, di gregarietà. Ora, molti, molti pensano che l'essere fedeli e gregari alla fine paghi. In Italia in effetti è così, però quella foto non faceva, diciamola tutta, non faceva onore nemmeno alle signore che reggevano l'ombrello. Senta, la ringrazio molto, professore, grazie per essere stato con noi a Nessuna è Perfetta. Buona domenica, grazie. Buona domenica. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. Nessuna è perfetta. Ed eccoci di nuovo, Nessuna è Perfetta, bentornata Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, autrice, come dimenticarlo, della legge Golfo-Mosca che ha introdotto le quote nei consigli di amministrazione, le quote per manager, donne, professioniste, competenti, che ha cambiato il volto dei consigli di amministrazione in Italia. Lella Golfo, che è parte della task force Donne per un nuovo rinascimento, a supporto della ministra della famiglia Bonetti. Questa task force ha messo sul tavolo alcune proposte sul lavoro, conciliazione dei tempi di famiglia e ufficio, formazione. Lella, come le vedi queste proposte, e soprattutto qual è stato il tuo ruolo nella task force? Intanto buona domenica, grazie dell'invito. Il mio contributo c'è stato perché ho portato 30 anni di esperienza sul campo, però devo dire che ho lavorato bene con tutte le 12 esperte. Il mio è stato un sottogruppo che abbiamo un po' meglio approfondito i temi del lavoro, della conciliazione, che sono un po', diciamo, quelli che stanno nel mio DNA. Tu hai parlato della legge, però questa legge, mi fa piacere che chi ci ascolta sappia che è stata rinnovata e sì, ci sono ancora tre mandati col 40%, l'asticella è salita al 40%, quindi un fatto abbastanza importante, diciamo che là finalmente abbiamo messo un punto fisso. Andiamo. Senti. Sì. Ecco, no, volevo chiederti, ma la consapevolezza che il Covid-19 è un problema di straordinaria dimensione, un problema per tutti, un problema sanitario e un problema economico, ma che ha dei riflessi molto pesanti sul fatto che, mancando il fattore scuola, mancando gli asili, mancando le scuole materne, mancando le scuole, molte mamme sono costrette a rientrare a casa e a non lavorare. Ecco, su questo tema avete fatto una riflessione, immagino, nella task force. Assolutamente, assolutamente sì, e abbiamo anche delle proposte abbastanza importanti. Intanto abbiamo pensato a un incentivo del 30% sullo stipendio delle madri che tornano al lavoro dopo la maternità obbligatoria, che significa che se rimane a casa continua a percepire lo stesso stipendio, ma se decide di tornare a lavorare sa che c'ha un 30% in più. Quindi questa mi sembra un'ottima cosa. Poi abbiamo anche pensato a un contributo alla nascita di un figlio fino almeno ai 14 anni. Poi un'altra proposta è il rafforzamento dei congedi di paternità. E tu come sai, proprio per scardinare gli equilibri che esistono all'interno delle famiglie, io vorrei ricordare che il 50% di donne con bambini in età scolare esce dal mondo del lavoro. E poi abbiamo pensato anche un'altra cosa importante, a una rimodulazione dell'anno scolastico. Noi sappiamo che la scuola italiana apre il 15 di settembre e chiude il 15 di giugno, ma non è possibile perché rimangono quasi... In nessun altro paese europeo chiudono così presto. Esattamente, quindi noi abbiamo proposto scuole aperte tutto l'anno, proprio per venire incontro a un nuovo modello sociale in cui uomini e donne lavorano. Poi un'altra cosa che a me è molto cara è un fondo per l'imprenditoria femminile, soprattutto per la microimpresa, cioè, soprattutto per aiutare quelle donne, che ahimè saranno tante, alla terza fase che è già iniziata, che si troveranno senza lavoro. Quindi questa potrebbe essere è proprio così. Senti Lella, ma tu non hai l'impressione che tutte le volte che si fa notare quanto persino nei dettagli questo paese sia arretrato, persino nel dettaglio di comunicare questa app Immuni, che sta avendo un grande successo e che però sceglie come iconografia il maschio davanti a un computer, quindi al lavoro, invece la donna, l'italiana, che potrebbe essere interessata alla app Immuni, col bebè. Poi tra l'altro in un paese che di bebè ne fa veramente pochi. Ecco, tu non hai l'impressione che ci sia in giro una certa insofferenza maschile rispetto al fatto che si fanno notare queste cose? Assolutamente sì, e hai colto proprio la situazione. C'è un arretramento, assolutamente, c'è uno spingere le donne a fare un passo indietro. Questo lo stiamo toccando con mano, mentre vediamo dall'altra parte le donne, le donne eroine che ci siamo abituati a vedere in questa situazione. Cioè, per me l'Italia manca di modernizzazione. Cioè, noi abbiamo bisogno e per fortuna che c'è il presidente Mattarella che nomina cavalieri, le donne medico, le donne infermiere, le donne che in questa fase hanno dato tanto. Ma vede, questo è un bellissimo segno per l'Italia, ma non basta. Qua ci vuole un cambiamento veramente culturale nel DNA di tutti e ci vogliono anche dei progetti innovativi. Se tu pensi che la banda larga nel nostro paese più o meno ce l'ha un quarto della popolazione, uno però in Europa ce l'ha il 60%. Questo secondo me vuol dire anche tanto. Cioè, è un paese certo. Che non riesce ad andare avanti, un paese fermo. Cioè, non ci dobbiamo arrendere. E parlo per... Parlo a una combattente come te, per cui nessuna è perfetta, ti aspetta quando vuoi e verrai a raccontarci con i tuoi sensori, con le tue antenne, quello che sta succedendo in Italia, e noi continuiamo a rompere le scatole su questo, perché non è possibile che questo paese non sia un paese per donne. Grazie Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario. Fateci sapere cosa pensate delle proposte che Lella ci ha appena anticipato, le proposte della task force voluta dalla ministra della famiglia Bonetti. Fatecelo sapere lasciando i vostri messaggi all'828 12 12. Vi piace l'idea del 30% in più alle giovani mamme che tornano al lavoro dopo aver avuto un bambino? 30% di stipendio in più, mi sembra una buona idea, io la penso così, e voi come la pensate? Fatecelo sapere, ascolteremo i vostri messaggi domenica prossima, e fatemi ringraziare la piccola ma combattentissima squadretta di Nessuna è Perfetta. Grazie Gaia Romani, grazie Alessandro Chiappini. Intanto buona domenica a tutti, se vorrete ci sentiamo come sempre dal lunedì al venerdì alle 8:20 con 24 Mattino con Simone Spezia. Ciao, buona domenica.